hanno avuto una funzione molto importante. Oggi questa funzione non vogliono rassegnarsi a perderla e non vogliono rassegnarsi a cambiare seguendo quelle che sono le modalità di esercizio dei nuovi tempi. Cioè non è ammissibile che nel 2011 si vada raccontando ai cittadini che un numero limitato di notai viene fatto nel loro interesse o che un numero limitato di farmacie, il fatto di dover fare chilometri per trovare un'aspirina, possa essere considerato un vantaggio per il cittadino. Si spaccia come interesse pubblico quello che è l'interesse di una categoria di mantenere un reddito. Quella che è il problema della semplificazione, della sburocratizzazione, della velocizzazione della giustizia è un problema irrisolvibile in presenza degli ordini che si oppongono a tutto quello che può servire a snellire le procedure burocratiche. Cioè, i commercialisti contestano lo sportello unico delle imprese perché accelererebbe i tempi delle imprese ma sottrarrebbe il loro lavoro. Gli avvocati contestano la mediazione obbligatoria. Perché? Perché le lungaggini della giustizia, come potrebbero far immaginare la modalità stessa di come sono articolate le tariffe, sottrarrebbe loro del lavoro. Si oppongono all'accorpamento dei tribunali minori, cioè tutte quelle caratteristiche che possono agevolare le vite dei cittadini vengono ostacolate dagli ordini quando sottraggono il lavoro. La verità è che lo spirito corporativo prevale sullo spirito sociale, cioè ognuno fa gli interessi della sua corporazione e dei suoi iscritti ai danni dei cittadini, quindi va cercando occasioni di lavoro non per migliorare il sistema ma per sfruttarlo.